notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. L'aereo caduto nel Sinai per la CIA è una bomba, ma la Russia frena. Gran Bretagna e Olanda sospendono i voli da e per Sharm el Sheikh. EasyJet cancella anche quelli da Milano. Mafia Capitale si apre il processo. Carminati cambia strategia e parlerà in aula. I suoi avvocati dicono è un processetto dopato dai media. L'Istat e Bruxelles rivedono in positivo le stime di crescita per l'Italia, più 0,9% nel 2015. Tornano a crescere gli investimenti delle aziende e i consumi delle famiglie. Batilix non indaga solamente la Santa Sede. La procura di Terni apre un'inchiesta sulla Ciaochi, arrestata l'altro ieri, sul marito. Ricatti per ottenere favori e posizioni. Per la MotoGP è attesa nel pomeriggio la sentenza del Tribunale di Losanna sul ricorso di Valentino Rossi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In apertura dunque andiamo in Egitto per le indagini sull'aereo caduto dopo la partenza da Sharm el Sheikh, aereo diretto a San Pietroburgo sabato. La CIA parla di una bomba, la Russia invoca cautela, la Gran Bretagna e l'Olanda fermano i voli dall'aeroporto della località turistica. Un punto. Troppo presto per attribuire a una bomba la causa dello schianto dell'aereo passeggeri russo nel Sinai. Il Cremlino non concorda con l'intelligence americana e con il governo inglese, secondo cui l'ipotesi di una bomba a bordo dell'Airbus A321 è quella più probabile. Lo ha chiarito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sottolineando che tutto il resto sono informazioni non verificate o congetture. La presa di distanza di Mosca non ha convinto Londra, che ha bloccato i voli da e per Sharm el Sheikh. Il Regno Unito adotterà oggi misure d'emergenza per consentire ai 20.000 turisti britannici bloccati nella penisola di rimpatriare. La stampa inglese accusa di scarsa sicurezza lo scalo egiziano. Il Mail parla di un probabile scambio di valigie eseguito da un dipendente complice o corrotto. EasyJet ha deciso di sospendere tutti i voli verso Sharm el Sheikh, compreso il volo da Milano. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E tra poco torneremo a parlare di tutto questo, parleremo anche dell'impatto che può avere per il turismo, ragioneremo insieme a un ex generale dell'aeronautica sulle ipotesi in merito a questo volo che sono circolate fino ad ora, su che cosa effettivamente può essere successo vista la dinamica. L'altra notizia di giornata è senza dubbio l'apertura del processo Mafia Capitale. In aula molti dei protagonisti dell'inchiesta che ha scosso l'amministrazione capitolina e che ha fatto emergere un sistema di malaffare basato prevalentemente su corruzione e appalti. La nostra inviata a Roma, Raffaella Calandra. Buongiorno Raffaella. Sì Simone, buongiorno. Neanche i posti in piedi sono più garantiti qui nell'aula o corso della cittadella della giustizia di Roma per questa prima udienza del processo al mondo di mezzo di Carminati & Company. Ora la discussione verte su una delle questioni tecniche che ha reso però più gravida di tensione anche con uno sciopero degli avvocati il prossimo lunedì, la vigilia di questo processo, ossia il divieto per alcuni imputati a partecipare di persona e non in videoconferenza alle udienze. Così su due schermi in 8 riquadri fanno capolino a Piazzale Clodio altrettanti imputati detenuti dei 46 qui alla sbarra, e il primo con felpa nera è proprio Massimo Carminati, ex membro di NAR e della Magliana, capo secondo la procura di questa mafia originaria e originale come è stata definita dai PM. In questo dibattimento, al contrario che in passato, Carminati potrebbe decidere di parlare, ci ha detto il suo difensore Giosuè Naso, che poi in aula nella sollevare eccezione per l'assenza appunto degli imputati ha liquidato questo come un processetto frutto di operazione mediatico-giudiziaria, parole che hanno innescato schermaglie non prive di tensione con la procura e prospettano un rischio di nullità se così non fosse. È stato lamentato con forza anche dall'avvocato Di Buzzi, che riprova la strada del patteggiamento finora negata. Presente invece in aula Luca Odeven, appena mandato ai domiciliari dopo aver iniziato a collaborare con i PM, e i suoi verbali, lui che era un ex membro del tavolo immigrazione del Viminale, sarebbe pieni di scomode rivelazioni soprattutto sulla gestione dei migranti. Ho fatto degli errori, ma a Roma non c'è la mafia, per lavorare le cooperative devono fare compromessi fiscali, ha ammesso parlando con i cronisti prima di essere allontanato bruscamente dai carabinieri. E per ora da Palazzo Clodio, da Piazzale Clodio è tutto. E grazie Raffaella Calandra, poi torneremo a parlare con te alle 13.35, sentiremo anche qualche voce da questo processo. Tutto questo mentre a Roma si scalda i motori, la squadra del commissario Tronca. La mia squadra è pronta, aveva annunciato il nuovo commissario del Campidoglio, Francesco Paolo Tronca, nel suo incontro di ieri pomeriggio a Palazzo Chigi, e in serata sono arrivati i decreti di nomina dei 6 subcommissari che lo affiancheranno. 4 uomini, Ugo Taucer, già suo braccio destro alla prefettura di Milano, Livio Panini d'Alba, Giuseppe Castaldo, Pasqualino Castaldi, e 2 donne, Yolanda Rolli e Clara Vaccaro, funzionari del Viminale, la maggior parte dei quali provenienti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dalla Ragioneria di Stato, e che lavoreranno su varie priorità. Tra queste le periferie, l'illuminazione e i trasporti pubblici. Tempi più lunghi invece per la nomina delle Dream Team, la squadra di tecnici ed esperti di vari campi e le strette dipendenze di Palazzo Chigi per gestire il giubileo e le risorse ad esso destinate. Si dovrà aspettare il Consiglio dei Ministri del 13 novembre, durante il quale verrà anche sciolto il delicato nodo della ripartizione delle competenze tra i 2 prefetti, Gabrielli e Tronca, relativi ambiti di potere. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E veniamo ad una pagina economica che apriamo parlando delle previsioni dell'Istat sull'andamento dell'economia, previsioni che indicano una crescita che sfiorerà l'1% nell'anno in corso. Sale la stima sulla crescita italiana da parte dell'Istat in una pubblicazione che anticipa i dati della Commissione europea con le previsioni economiche d'autunno. L'Istituto di Statistica prevede appunto una crescita del prodotto interno lordo italiano pari allo 0,9% in termini reali quest'anno, cui seguirà un aumento del PIL dell'1,4% nel 2016 e nel 2017. Il dato del 2015 è in linea con il governo. Lo stesso Istituto Statistico aggiunge che le previsioni incorporano le misure descritte nel disegno di legge di stabilità 2016. Buone notizie non solo sul fronte dei consumi, quest'anno la spesa delle famiglie aumenterà dello 0,8% in termini reali, ma le prospettive sono positive anche su quello dell'occupazione, che aumenterà nel 2015 più 0,6%, accompagnata da una riduzione del tasso di disoccupazione che si attesterà al 12,1%. Crescita dell'occupazione anche nel 2016, meno nel 2017, ma comunque sempre in discesa il tasso di disoccupazione. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. Temi sui quali interviene anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, e sui quali pochi istanti fa ha parlato anche il presidente del Consiglio Renzi, in una giornata ancora delicata per la legge di stabilità, i rapporti tra governo e regioni e anche i rapporti tra la maggioranza del Partito Democratico e la minoranza del Partito Democratico. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, lo ricordavi giustamente da studio, tanti temi intorno ai dati dell'Istat e intorno alla legge di stabilità. Per quanto riguarda l'Istat, di poco fa il commento del Presidente del Consiglio Renzi, che stia finendo la dittatura dello zero virgola non è un successo per il governo, è un traguardo per l'Italia, siamo tornati finalmente così, Matteo Renzi. Quindi il commento degli industriali, l'Italia è finalmente faticosamente uscita dalla recessione, dice il Presidente di Confindustria Squinzi. Anche i numeri di oggi dimostrano che il miglioramento c'è, dovremo veramente vedere l'uscita dal tunnel a breve. Quindi la legge di stabilità, Squinzi ribadisce un giudizio complessivamente positivo sulla manovra, così come sottolinea ancora alcune criticità del provvedimento, come l'insufficiente sostegno a ricerca e innovazione ed una carente attenzione ai problemi del Sud. Per gli investimenti delle imprese serve, dice ancora Squinzi, una ripresa del mercato, dice quindi ancora il presidente di Via dell'Astronomia. E sempre sulla legge di stabilità si può parlare di compromesso, quello raggiunto tra governo e regioni, anche se, notizia di poco fa, queste ultime hanno sospeso il loro giudizio, che sembrava invece andare verso il via libera. Il nodo resta quello delle risorse per la sanità, i saldi della manovra non cambiano, ha chiarito Palazzo Chigi, 111 miliardi, domani però il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare il cosiddetto decreto salva regioni. Il Presidente del Consiglio Renzi intanto ricorda ai governatori spendano meglio anziché lamentarsi. Infine Simone, tra gli emendamenti della minoranza del Partito Democratico, la richiesta che venga rivisto il limite al contante. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta. Nel frattempo arrivano segnali positivi anche dall'Europa, che oggi ha presentato le previsioni di autunno. La stima per l'anno in corso per l'Italia è identica a quella dell'Istat, della quale vi abbiamo riferito poco fa, un più 0,9%, mentre il commissario Dombrovskis parla di una ripresa per il nostro paese sempre più autosufficiente. L'analisi del corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. È una relazione tutto sommato positiva quella che la Commissione europea ha presentato oggi. Bruxelles prevede un aumento della crescita economica in Italia dopo gli anni di recessione e dà un giudizio positivo delle riforme economiche adottate in questi ultimi mesi dal governo italiano. In particolare l'esecutivo comunitario mette l'accento sull'andamento del costo del lavoro, la cui evoluzione appare maggiormente sotto controllo. Miglioramenti sono attesi anche sul versante della disoccupazione, in calo dal 12,2% del 2015 all'11,8% del 2016. Sul fronte del disavanzo la situazione rimane meno rosea. La Commissione si aspetta un calo del deficit rispetto al 2015 l'anno prossimo, ma è più pessimista del governo Renzi. Tra due settimane l'esecutivo comunitario pubblicherà un'attesa opinione sulla legge di stabilità. Per ora i dati pubblicati oggi non lasciano emergere alcun giudizio. Molti osservatori si aspettano che alla luce degli sforzi italiani per modernizzare l'economia, la Commissione valuterà con magnanimità il bilancio previsionale italiano, ma forse senza concedere tutta la flessibilità richiesta dal Ministero dell'Economia. Veda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. Restano in primo piano le vicende vaticane dopo la fuga di documenti riservati sulle finanze della Santa Sede al centro di due libri in uscita in questi giorni che ha portato all'arresto di due persone. Spuntano registrazioni del Papa e soprattutto nuove indagini, in questo caso dall'Italia, da Terni. Mentre continuano le indagini sui documenti riservati del Vaticano resi pubblici attraverso i libri di Emiliano Fittipaldi e Gianluigi Nuzzi, si infittiscono le ombre sul ruolo dell'esperta di pubbliche relazioni Francesca Immacolata Ciauchi, fermata giorni fa insieme a Monsignor Valeo Balda per aver trafugato e diffuso notizie riservate. La PR è infatti coinvolta insieme al marito Corrado Lanino, esperto informatico, in un'altra inchiesta portata avanti dalla Procura di Terni, in cui si ipotizzano i reati di intrusione informatica ed estorsione simili a quelli che hanno portato all'arresto di Valeo Balda e della stessa Ciauchi, poi carcerata per la sua volontà di collaborare. Dalle indagini risulta che il marito della PR, grazie alla sua attività di webmaster del circuito informatico di terzo livello della Santa Sede, sarebbe riuscito ad entrare in numerosi computer, carpendo tra l'altro informazioni su pagamenti sotto banco per la gestione delle pratiche su canonizzazioni e beatificazioni. I documenti proverebbero il versamento di una sorta di tangenti per velocizzare tali pratiche a favore di avvocati, medici e religiosi. Informazioni riservate che i due avrebbero utilizzato per ottenere incarichi a loro favore o per le persone a loro vicine. Centinaia di documenti trafugati, solo una minima parte dei quali è stata resa pubblica, che rischiano di travolgere diversi uffici oltretevere. Il fascicolo di Terni nasce nell'ambito degli accertamenti sul dissesto della curia locale che avevano coinvolto Monsignor Vincenzo Paglia, la cui posizione poi è stata archiviata. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'indomani della sentenza di assoluzione dell'ex ministro Calogero Mannino nel processo sulla trattativa Stato-mafia, cosa può succedere al resto del procedimento? L'analisi di Nino Amadore. Certo bisognerà aspettare le motivazioni, ma la sentenza con cui il GUP Marina Petruzzella ha assolto l'ex ministro Calogero Mannino per non aver commesso il fatto toglie, come ha detto qualcuno, la pietra angolare a quella costruzione che si chiama processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Basta la logica: se Mannino non è colpevole di aver avviato la trattativa, così come sosteneva l'accusa, non si capisce il senso di un processo in sede ordinaria che vede alla sbarra boss, ufficiali dei carabinieri e politici che questa trattativa dovrebbero averla fatta. Viene a mancare, a rigor di logica, la base, il presupposto di quei reati che hanno condotto al processo. Come ovvio, ogni procedimento ha la sua storia e vedremo come andrà a finire questo processo. Ma una cosa va detta: le aule di giustizia non sono i luoghi più adatti per fare il processo alla storia con la S maiuscola. Parliamo però adesso di tutt'altra aula di giustizia. Dovrebbe arrivare oggi la sentenza sul caso Valentino Rossi Marquez. Guai a considerarle solo scartoffie e diatribe da avvocati, perché il verdetto che il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna emetterà oggi pomeriggio potrebbe già decidere la corsa al motomondiale, ben prima che la corrida di Valencia abbia inizio. Nel pomeriggio, infatti, come annunciato dal TAS sul suo sito web, si saprà se Valentino dovrà partire dall'ultimo posto in griglia, come deciso dalla direzione gara e confermato in appello dalla Federmoto Internazionale, o se invece sarà libero di giocarsi la miglior posizione sullo schieramento. Il ricorso presentato dal team di Rossi chiede l'annullamento, la riduzione della sanzione da 3 punti sulla patente da pilota applicatagli dopo lo scontro con Marquez sul circuito di Sepang. Il taglio anche di un solo punto permetterebbe a Valentino di non partire ultimo a Valencia e così di potersi giocare alla pari il titolo mondiale con Lorenzo nell'ultimo Gran Premio della stagione. Ricordiamo che sono 7 invece i punti di vantaggio del pesarese sul mallorchino nella classifica generale del mondiale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, ancora un aggiornamento sulla vicenda dell'aereo caduto nel Sinai. Innanzitutto una notizia che arriva e viene riferita dal Guardian, per cui anche l'Ucraina ha bloccato i voli da e verso Sharm el Sheikh. E poi ci sono le dichiarazioni del premier britannico Cameron, che dice è probabile che sia stata una bomba. Di tutto questo, di quanti voli sono stati bloccati, parleremo tra un attimo e parleremo anche della dinamica. Cercheremo di capire un po' meglio da qualcuno che se ne intende un po' più di noi, da un esperto di aeronautica, un ex generale dell'aeronautica, insomma che cosa effettivamente ci fa ritenere che questo sia. Torneremo a parlare anche dei dati dell'Istat e lo faremo con un'intervista, tutto questo dopo il traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo, Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: l'aereo caduto nel Sinai, ha parlato pochi istanti fa il premier britannico Cameron, dice è probabile che sia stata una bomba. La Gran Bretagna, l'Olanda, adesso anche l'Ucraina hanno sospeso i voli da e per Sharm el Sheikh. EasyJet ha cancellato anche quelli da Milano. Per Mafia Capitale si apre il processo, Carminati cambia strategia e parlerà in aula, i suoi avvocati dicono è un processetto dopato dai media. L'Istat e Bruxelles rivedono in positivo le stime di crescita per l'Italia, più 0,9% nel 2015, tornano a crescere gli investimenti delle aziende e i consumi delle famiglie. Su Vatilix non indaga solamente la Santa Sede, la Procura di Terni apre un'inchiesta sulla Ciao Qui, arrestata l'altro ieri, e sul marito Ricatti per ottenere favori e posizioni. E torniamo a parlare dell'aereo caduto nel Sinai. La nostra notizia di apertura, notizia di poco fa, quella che abbiamo riferito anche nei titoli, sono le dichiarazioni del premier britannico David Cameron. Risponde tra l'altro Mosca, che dice è grave se la Gran Bretagna ha delle informazioni e non ce le fornisce. Prima di andare a parlare della dinamica di quello che è successo, vogliamo fare un punto, per così dire, su quello che sta succedendo dal lato dei voli e dal lato del turismo, che lo ricordiamo una fonte importantissima di reddito per lo stesso Egitto, e quindi è evidente come questa vicenda crei un problema forte. Facciamo un punto con la nostra Adriana Fracchia in studio. Adriana, buongiorno. Sì, buongiorno. La tragedia aerea in Sinai, che anch'essa ancora in corso, sembra però far propendere sempre più per un attentato terroristico, e da una parte anche lo stato d'emergenza proclamato dal presidente delle Maldive per motivi di sicurezza nazionale mettono fortemente a rischio due rinomate mete turistiche, appunto Sharm el Sheikh e le Maldive. Dopo il Regno Unito, per quanto riguarda Sharm el Sheikh, e dopo il Regno Unito l'Irlanda e l'Olanda, ora anche la compagnia low cost EasyJet ha annunciato la sospensione dei voli per Sharm, decidendo di cancellare sia quello da Milano Malpensa che quelli da Londra e da Manchester. Attualmente dei 1500 italiani che sono a Sharm, 180 volano con EasyJet e sono fermi là proprio a causa di questo stop dei voli, e verranno fatti rientrare appena possibile. Mentre per quanto riguarda le Maldive, in atto una nuova crisi politica per l'arresto avvenuto nel marzo scorso dell'ex presidente Nasheed, che dopo essere stato esautorato dal potere per un sospetto golpe, appunto, è stato arrestato. Per questo la Farnesina consiglia agli italiani in partenza per le Maldive di posticipare temporaneamente viaggi nella capitale malè e nelle altre isole al di fuori di quelle che ospitano i resort, anche se va ricordato che l'aeroporto internazionale si trova sull'isola di Ulule contigua a Malè e che al momento momento non è interessata dalle criticità degli ultimi mesi. La raccomandazione è comunque quella di seguire le indicazioni pubblicate sul sito Viaggiare Sicuri e nel frattempo comunque da Stoi Confindustria, l'associazione dei tour operator, fanno sapere che al momento non risultano disdette di viaggio per entrambe queste destinazioni e che la situazione è ancora molto fluida. Ovviamente è una situazione in evoluzione. Grazie nel frattempo ad Adriana Frache, ci ha raggiunto al telefono il generale Leonardo Tricarico, è presidente della Fondazione ICSA, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Generale Tricarico, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno, grazie. Da quel che ha visto e capito, da quel che ha letto, è una bomba oppure no? Ma sembrerebbe, diciamo, già dall'inizio le ipotesi erano molteplici, alcune più verosimili, altre più improbabili. Questa della bomba fin dall'inizio, diciamo, era quella che aveva più probabilità che fosse la causa della caduta del velivolo. Certo, ancora non, nessuno credo che abbia le prove in mano per poter dire con certezza che sia stata una bomba, e in questo senso, oltre all'intelligence o alle ipotesi, diciamo, che si fanno, è importante che il relitto venga esaminato, diciamo, con grande cura dai migliori esperti, perché non c'è dubbio che se bomba è stata se ne troveranno le tracce. Io dico sempre: il relitto parla, basta saperlo interrogare. E questo è il punto fondamentale. Sì, dall'altra parte ci sono due paesi, quelli che si stanno occupando della cosa fattivamente, che sono l'Egitto e la Russia, che teoricamente hanno tutto men che l'interesse a far sapere che si tratti di una bomba. E hanno interessi contrapposti, evidentemente, però c'è un interesse supremo che è quello della sicurezza dei trasporti aerei. E io spero che, insomma, io adesso non so come sia stata messa in piedi una commissione che deve essere evidentemente indipendente e che deve individuare e designare gli esperti massimi proprio per questo tipo di incidente nei settori dell'aerodinamica, della chimica, dell'esplosivistica, in modo che si arrivi a delle cause certe, pressioni o non pressioni. E poi, se posso permettere, prego, indicare una possibile fragilità del sistema. Diciamo che la terza dimensione, lo spazio, esercita, insomma, un richiamo nefasto, abbiamo visto, sul terrorismo e su altre forme di criminalità. Allora, proprio per questo non bisogna mai abbassare la guardia. Io ho la sensazione che invece alcune maglie del sistema siano un po' troppo lasche e che quindi si possano verificare queste forme di criminalità. Allora, vanno visti bene gli aeroporti. Gli aeroporti sono dei sistemi molto complessi che sono sottoposti a una serie di normative ICAO, quindi a livello mondiale, sul rispetto delle quali va esercitata una vigilanza molto più stretta, perché così forse è la prevenzione che, insomma, poi stupisce. Però generale, mi permette una cosa: stupisce che un aeroporto così controllato come quello di Sharm el Sheikh, l'abbiamo detto quanto è strategico per l'Egitto il turismo in questo caso e soprattutto in quella zona di turisti russi e italiani prevalentemente, stupisce che queste normative e queste maglie di sicurezza non siano state così strette in un aeroporto come quello. C'è addirittura chi ha ipotizzato un missile. No, missile no, sentirei da escluderlo. Ma per esempio, tanto per andare un po' più nel concreto, no? Una procedura che vedo diciamo mal digerita dai sistemi aeroportuali è quella della riconciliazione passeggero-bagaglio. Ossia, prima dell'imbarco va fatta almeno una volta questa procedura, va eseguita, per vedere che insieme al bagaglio parta anche il passeggero, no? E vedo che tante volte anche in aeroporti, diciamo, occidentali, che si suppone siano un po' più seguiti, e questa procedura non viene fatta fino in fondo. Allora è chiaro che se uno può imbarcare una valigia con l'esplosivo a bordo facendola franca, poi, e questa è, diciamo, una fragilità importante che consente insomma di portare a compimento gli attentati senza rischiare alcunché, insomma, no? Questo tanto per dirne una, ma ci sono per la verità 8 schede che riguardano appunto bagaglio d'attiva, bagaglio passeggeri, l'aeroplano, i piloti, il personale, la struttura, e queste vanno eseguite, quindi le autorità di vigilanza che sono le autorità governative, da noi è l'ENAC, le corrispondenti ENAC dei paesi devono incrementare la vigilanza e non abbassare mai la guardia. La ringrazio, grazie al generale Leonardo Tricarico per essere stato nostro ospite, le auguro buona giornata e noi torniamo a parlare dei dati economici dei quali vi abbiamo parlato anche nella prima parte della trasmissione. I dati sulla crescita italiana, l'Istituto di Statistica prevede una crescita dello 0,9% in termini reali del PIL per il 2015, cui seguirà un aumento dell'1,4% nel 2016 e nel 2017. Riprende tra l'altro la domanda interna, ripartono gli investimenti delle aziende. Fabio Bacchini, responsabile studi econometrici dell'Istat, lo ha intervistato Anna Marino. La caratteristica della crescita del triennio, che è importante ricordare, prevista dopo un periodo di recessione dell'economia italiana, è quella di essere alimentata prevalentemente dalla domanda interna, in particolare dai consumi. Quello che ci aspettiamo quindi è un quadro in cui i consumi delle famiglie cresceranno dello 0,8 nel 2015, dell'1,2 nel 2016 e continueranno con un'intensità analoga nel 2017. L'altra parte importante della crescita dovrebbe avviare con intensità maggiore nel 2016, riguarderà gli investimenti che aumenteranno del 2,6 nel 2016 e del 3 nel 2017. Da notare anche un dato positivo sulla occupazione e sul tasso di disoccupazione. La dinamica positiva dei consumi e quindi delle famiglie è associata sia a un miglioramento del reddito disponibile indotto anche dal contenimento dell'inflazione, sia soprattutto da un miglioramento del mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazione è previsto arrivare all'11,3 nel 2017, in presenza di un aumento dell'occupazione in tutto il triennio di previsione. Quindi l'ipotesi è quella di uno scenario confortante per le famiglie e per il mercato del lavoro, al quale si dovrebbe associare una ripresa degli investimenti e a partire dal 2016 anche una ripresa del ciclo delle costruzioni. E questo è il quadro dai dati economici. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sui mercati tra un istante e poi ci ritroviamo subito dopo per la terza parte della trasmissione. Torneremo al processo di Mafia Capitale, ci sono degli aggiornamenti, delle voci che vi vogliamo far sentire, e torneremo ancora a parlare del Sinai e dell'Egitto da un punto di vista un po' più strategico, capire un po' che cosa rappresenta questo probabile attentato. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci con Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le quattro notizie principali di oggi: l'aereo caduto nel Sinai, c'è Cameron che dice che è probabile una bomba, mentre Gran Bretagna, Olanda, Irlanda e Ucraina sospendono i voli da e per Sharm el Sheikh, EasyJet cancella anche quelli da Milano. Ci sono 180 italiani che hanno volato con EasyJet che si trovano là, verranno recuperati. Mafia Capitale in aula, gli avvocati di Carminati dicono è un processetto dopato dai media. L'Istat e Bruxelles rivedono in positivo le stime di crescita per l'Italia, più 0,9% nel 2015. MotoGP attesa nel pomeriggio la sentenza del Tribunale di Losanna sul ricorso di Valentino Rossi. Alla borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo per l'ultima parte della trasmissione. Innanzitutto un aggiornamento sulla vicenda dell'aereo caduto nel Sinai. Le ultime raccontano di un premier britannico, Cameron, ve lo abbiamo detto, che dice che probabilmente si tratta di una bomba, di una Russia che replica se Londra sa qualcosa ci parli. Ebbene, di pochi istanti fa la dichiarazione dello stesso Cameron che dice chiamerò Putin per spiegargli su cosa si basano le nostre paure. Su questo torneremo tra un attimo, intanto andiamo dalla nostra Raffaella Calandra, che sta seguendo il processo Mafia Capitale che si apre oggi, e anche qualche voce da farci sentire. Raffaella, eccoci, buongiorno. Sì, Simone, di nuovo buongiorno. Ora i giudici della 10ª sezione penale sono in camera di consiglio per decidere sulle istanze di nullità sollevate da alcuni avvocati per la partecipazione solo in videoconferenza per tutto il processo di 3 imputati, a cominciare da Massimo Carminati, una delle questioni che ha reso più gravida di tensione questa vigilia anche con uno sciopero degli avvocati lunedì prossimo. Alcuni di quelli detenuti, una ventina, ci saranno invece in aula quando il dibattimento si trasferirà a Rebibbia. Oggi invece fanno capolino solo sui riquadri degli schermi, mentre tra gli imputati presenti c'è Luca Odeven, ex membro del tavolo immigrazione del Viminale, appena mandato ai domiciliari dopo aver riempito pagine di verbali. Ho ammesso i miei errori, ci ha detto in aula, sentiamolo. C'è stata un po' di attenzione sulla mia persona, francamente mi sembra eccessiva, nel senso che non avevo tutto quel potere che sembra che io avessi. Ho ammesso le mie responsabilità. Su che fronte? L'aspetto particolare è che per sopravvivere, parlo dal punto di vista delle cooperative, in questa realtà bisogna arrivare a dei compromessi, che molto spesso sono compromessi soprattutto poi alla fine di natura fiscale. Cioè, qui il problema vero è che lo Stato non paga, lo Stato comincia a pagare dopo un anno, e chi si può assumere l'onere di anticipare i soldi sono solo grossi gruppi. Ehi, per cortesia, non può fare dichiarazioni in aula, deve uscire dall'aula. Come avete sentito, si è interrotto molto bruscamente questa conversazione con Luca Odeven, e ripetute schermaglie anche con parole gravide di tensione ci sono state invece durante l'udienza tra procura e l'avvocato di Carminati, Giosuè Naso, che ha bollato questo come un processetto frutto di operazione mediatico giudiziaria il suo affondo. In aula anche il fratello dell'ex membro dei NAR della Magliana, Carminati, che qui potrebbe decidere di parlare, ci anticipa il difensore Naso, sentiamolo. Il suo assistito ha intenzione di parlare durante il dibattimento? Penso proprio di sì, quando sarà il momento opportuno probabilmente si difenderà in maniera diversa da come si è difeso negli altri processi. Tutto che vuol dire? Negli altri processi ha conservato un dignitoso silenzio. Qui ci sono dei fatti concreti e su questi fatti concreti probabilmente Carminati avrà da dire la sua. Ora sarà la volta poi anche delle tantissime parti civili, della richiesta appunto di costituzione dal Comune di Roma al governo, dagli imprenditori alle associazioni che lavorano con i migranti. Saremo a vedere quanti saranno ammesse, e queste associazioni lo chiedono di essere parte lesa nel processo, soprattutto quelle che si occupano dei migranti, in particolar modo per quanto viene contestato a Salvatore Buzzi, l'ex RAS delle cooperative che con i migranti, diceva, si fanno più affari che con la droga. Sentiamo il suo avvocato Didi. Noi vogliamo che Buzzi sia in aula e che non sia collegato in videoconferenza, e quindi questa è la prima questione che oggi porremo al Tribunale. Dobbiamo far emergere la verità, e la verità è quella che non c'è l'associazione per delinquere di stampo mafioso. Chiederete il patteggiamento? Questo sicuramente, lo abbiamo fatto dopo che ci fu la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, perché tecnicamente bisognava chiederlo in quel momento, e oggi abbiamo il diritto di ripresentarlo. Quando lo presentammo sapevamo che la Procura non ci avrebbe dato il parere positivo, ma oggi la legge ci consente di poterlo ripresentare. E questo è il quadro del processo Mafia Capitale, grazie alla nostra inviata Raffaella Calandra, e saluto adesso, e ci ha raggiunto, Andrea Margelletti, che è presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali. Benvenuto Margelletti, anzi bentornato ai nostri microfoni. Grazie a voi per l'ospitalità e un saluto naturalmente ai vostri ascoltatori. Il fatto che la caduta dell'aereo nel Sinai e la strage sia dovuta o possa essere dovuta ad una bomba, cambia qualcosa in quello scenario? No, direi di no, sinceramente. Adesso si sono tutti accorti, o molti si sono accorti, dei problemi nel Sinai, ma questo perché la memoria, per chi non segue quotidianamente queste dinamiche, è oggettivamente e anche ovviamente corta. In Sinai le truppe egiziane combattono quotidianamente contro gruppi jihadi, e tutti ricorderanno come pochi anni fa ci furono una serie di attacchi suicidi proprio a Sharm el-Sheikh indirizzati contro i turisti. Che ci sia un problema serissimo in quella parte dell'Egitto è cosa assolutamente conclamata da molto tempo, e conferma quanto abbiano difficoltà le forze di sicurezza egiziane a gestire il problema. Questo anche se l'aereo fosse caduto naturalmente per un problema tecnico e non per una bomba. E naturalmente questo rappresenta un problema enorme per l'Egitto, Margelletti, che fonda un pezzo importante della sua economia anche su quel pezzo di Mar Rosso e sul turismo in genere, ma anche su quel pezzo di Mar Rosso. Direi proprio di sì, anche perché è quasi tutto proprietà delle forze armate, che sono anche proprietari di alberghi in molti casi, quindi anche i generali ne hanno una diretta, come posso dire, un diretto beneficio. Però abbiamo visto in tantissimi casi, purtroppo dico io, come i turisti abbiano nei confronti del terrorismo un atteggiamento come molti hanno nei confronti dell'AIDS, cioè a me non può capitare. E questo ha portato in numerosissimi casi a purtroppo vedere dei rapimenti o delle vittime in scenari dove i turisti non avrebbero dovuto esserci o comunque viaggiare in maniera diciamo molto più conscia. Normalmente si sceglie di andare sulla base, viaggiare spesso, moltissimi lo fanno sulla base del budget a disposizione, ovviamente che impera, ma con poca attenzione a quello che magari sono le dinamiche di quell'area. Purtroppo il mondo è profondamente cambiato negli ultimi 25 anni e dovremmo anche un po' cambiare noi e adeguarci al mondo in cui viviamo. La ringrazio, grazie ad Andrea Margelletti anche per la rapidità e la chiarezza come sempre, lo ricordiamo, presidente del CESI, il Centro Studi Internazionali. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, il traffico, poi c'è il nostro Mario Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.